piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Erano circa le 7 di questa mattina quando un automobilista di 75 anni diretto verso Borgonovo si è trovato di fronte a un cinghiale. L'impatto avvenuto a Moretta di Ziano è stato violentissimo, tanto che l'auto ha sbattuto contro un ponticello prima di finire nel canale. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'elisoccorso ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma in gravi condizioni. La carcassa del cinghiale, del peso di 150 kg, è stata recuperata da Iren per l'incenerimento. Non si tratta dell'incidente di cui è stata già data notizia al giornale radio che mi ha preceduto, ma di un analogo incidente che è accaduto a Piacenza. Come avete sentito ormai da tutti i racconti fatti sia dai nostri giornali sia dai siti che ne stanno già parlando, questa notte è accaduto un altro incidente molto grave sulla A1 tra Lodi e Castel Pusterlengo, 10 feriti e un morto, perché un branco di cinghiali ha attraversato l'autostrada. È accaduto durante la notte, solo alle 8 di questa mattina hanno sbloccato l'autostrada. Tra i feriti ci sono anche bambini, persone molto giovani, e quindi probabilmente ritorniamo a bomba su un argomento di cui spessissimo abbiamo parlato, in cui erano divise le opinioni tra chi dice che è necessario un intervento drastico, senza al momento entrare nei particolari di chi sia la colpa. Sta di fatto che c'è stato uno squilibrio nel nostro ecosistema urbano, per cui animali che normalmente abitavano zone selvatiche, impervie, come cinghiali, ma come anche altri tipi di animale, ormai sono entrati nelle città. Io vivo nella città di Roma, nel quartiere Prate Trionfale. Ci sono foto perché scendo giù da Monte Mario, che è una bella area verde, un parco che ormai è al centro della città, una zona centrale della città e primo municipio, è facile vedere famiglioli di cinghiali che scorrazzano per Piazzale Clodio, per le zone del quartiere Prati. Ne abbiamo parlato più volte la gente ha detto, ma in fondo è un fenomeno naturale, bello, bisogna con gentilezza riaccompagnarli al loro posto d'origine, l'uomo che ha cambiato i ritmi della natura, abbiamo importato i cinghiali, quelli brutti, grandi e cattivi, i nostri erano piccoli, buoni e gentili, quindi è colpa dell'uomo, è colpa hanno questi cinghiali, o altri che dicono a questo punto esiste solo una soluzione, la fucilazione sul posto di tutti i cinghiali che entrano nelle città. Perché? Perché è pericoloso, perché sono animali grossi, sono animali pesanti, sono animali che possono creare problemi e ahimè molte volte questi problemi portano a tragici incidenti. Ho una rassegna pressoché sterminata di incidenti causati proprio da animali che sforano dalle loro zone d'origine e arrivano nelle città. Le città sono piene di spazzatura, in particolare Roma, e quindi sono zona di caccia, di pastura molto più appetibile che andarsela a cercare, e nelle aree verdi probabilmente sono inquinate, sono disastrate. Leggo dei dati della Coldiretti regionali riguardo la Lombardia, dato l'ultimo incidente avvenuto in Lombardia: 400 incidenti stradali provocati da cinghiali in Lombardia dal 2013 a oggi. Per qualcuno forse sono pochi, ci sono molti più incidenti, abbiamo detto che muoiono tante persone per disattenzione e per incuria, ma oggi di questo vogliamo parlare. Mi piacerebbe sapere, chiamando all'800240024 le persone che guidano, che vivono le città, quanto siete stati coinvolti, avete avuto esperienza personale di casi simili, cioè di animali, di daini, cerbiatti, ma anche conigli selvatici, anche volpi. Io nel tratto che faccio Roma, altopiano delle Rocche in Abruzzo, incontro volpi continuamente, bellissime, sembrano dei gattini, però sai, vedersi incrociare una volpe di notte su una strada già ghiacciata, uno schiaccia il freno, potrebbe essere pericoloso, ma la volpe in montagna ci può anche stare, ma quando le volpi arrivano alla periferia di Roma magari qualche domanda ce la facciamo. 800240024. Oh, è vivo, stia attento. Attenzione, non gli... Venga, vivo davvero. È vivo, C'ha solo tutto spezzato e non si riesce a muovere. Passata in apporta sulla capoccia. Questo era un video preso da YouTube, Alfredo Tammeleo. ha investito un cinghiale, questa persona non sapeva che fare, c'aveva questo cinghiale agonizzante, dice sì, finisci un cinghiale, sì, finisci un cinghiale. Se non sei cacciatore, non sei esperto, ti sembra facile soltanto avvicinarti a un cinghiale agonizzante, sempre pur un animale, una fiera, ha delle belle zanne, un animale grosso, aggressivo, che facilmente, se disturbato, può creare dei problemi. 800240024, ne avete voi testimonianza? Sapete raccontarmi? Avete fatto incontri ravvicinati del terzo tipo con animali che normalmente sono nei libri di favole o stanno nei boschi e nelle foreste, che in realtà ve li vedete al semaforo, al passaggio pedonale? Intanto sentiamo qualcuno che è informato sui fatti o perlomeno ha un respiro più ampio rispetto al problema. Papic Genovesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca Nicoletti. Allora, Papic Genovesi, ci conosciamo da anni e quindi ci possiamo anche dare del tu. È zoologo, responsabile gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Allora Papic, sono tanti anni che so che tu ti interessi questo fenomeno. Quali sono, diciamo, le correnti di pensiero che si muovono su questa materia che è abbastanza incandescente? Perché le amministrazioni sembrano ignorarlo, fanno finta di niente. Sì, a Roma ci sono i cinghiali, vabbè, c'è tanta roba, non si fa caso, bestia più, bestia meno. I cacciatori dicono dateceli a noi, partiamo con un plotone d'esecuzione, risolviamo il problema. Poi ci sono naturalmente l'utopia che dice ma sì, diamo la pillola alle cinghialesse, mettiamo il preservativo al cinghialone, facciamo delle maniere dolci e pulite per risolvere il problema. Dimmi dal punto di vista proprio scientifico, che questo è il tuo lavoro, secondo te i margini di questo problema? Chiariamo la cosa più semplice da chiarire, è l'ultimo punto che hai sollevato. Non esiste alcuna tecnica di sterilizzazione dei cinghiali, perché a me periodicamente arrivano sulla mia scrivania le richieste, non c'è questa tecnica, quindi è inutile per il momento parlarne. E è un problema, sentivo i commenti che hanno fatto i tuoi ascoltatori, prima l'hai sintetizzati, è in parte un problema, diciamo, naturale, un fenomeno naturale, perché sono molto aumentati i boschi, la caccia è più regolamentata di com'era 30 anni fa, ci sono più aree protette, per cui tante specie sono tornate naturalmente, sono cresciute, si sono piano piano espanse, sono arrivate ai bordi delle nostre città o dentro le città. Tu hai citato il quartiere Prati, ma in realtà cinghiali sono stati visti lungo il Tevere a Trastevere, noi abbiamo lupi ai margini di Roma, abbiamo caprioli nel cuore di Parma, quindi abbiamo è sempre più frequente il caso, non solo in Italia, di animali che entrano nelle nostre città. Ma voi lo avete previsto, voi, diciamo, tecnici, zoologi, che vi occupate di fauna, era prevedibile, come si prevedono, non so, i flussi migratori, che prima o poi sarebbe accaduto questo? Ma questo, diciamo, è un fenomeno che è legato a cambiamenti più socio-economici che non di come noi gestiamo queste specie, ripeto, perché sono aumentati i boschi, quindi è prevedibile e così sarà, nel senso, noi faccio un esempio che adesso non c'entra tanto con gli incidenti stradali, quello del lupo, il lupo è arrivato fino al Salento, che so che tu conosci bene, certo. Quindi in mezzo agli oliveti del Salento ci sono branchi di lupi. Che è una cosa singolare, perché in Abruzzo ci sta, ma nel Salento è un po' difficile vedere i lupi. Singolare per noi, in realtà il lupo è un animale adattabilissimo, come lo è il cinghiale ancora di più, per cui diciamo nulla di sorprendente per noi, diciamo, che seguiamo questo fenomeno. Infatti è un aspetto che diciamo accomuna tutto il nord del mondo, cioè in Scandinavia la prima causa di incidenti da decenni sono le alci, le grandi alci, in Nord America il numero di incidenti con ungulati selvatici è in forte aumento, noi abbiamo una popolazione di 5-6 mila cinghiali dentro la città di Berlino, mi ricordo che anni fa tu trattasti questo tema, sì, sì. Ecco, io ero a Berlino proprio in quei giorni, quindi diciamo è un fenomeno. Cioè a Berlino ci sono 5-6 mila cinghiali che passeggiano così per Berlino. E vengono, c'è una squadra di cacciatori che li abbatte regolarmente, sono in generale poliziotti in pensione. Cioè gli sparano per strada, se vedi un cinghiale li fucilano sul posto. Berlino ha una struttura con molto verde, perché c'è il muro, poi li metti al muro, chiaramente forse non c'è più il muro. Beh, un pezzetto ce n'è rimasto, dai. Esatto. Però diciamo, al di là dell'aspetto etico, abbattere o non abbattere, poi diciamo in città è molto complesso. Noi a Roma abbiamo un tavolo con il comune, con la prefettura, perché i prefetti spesso sono un po' in prima linea. Noi stamattina siamo stati di nuovo chiamati dal prefetto di Rieti, perché c'è stato un incidente anche vicino Rieti con cinghiali. Quindi c'è un tavolo a Roma con prefettura, comune, regione, aree protette, ISPRA, veterinari delle ASL e così via, per capire come gestire il problema in città. Ora, un problema, quello degli incidenti stradali. Io però vorrei ricordare una cosa, le autostrade dovrebbero essere recintate e gli animali non devono poter entrare. Quindi tutte le autostrade dovrebbero avere, almeno nelle zone boschive, una protezione antianimale. Sono tutte recintate, solo che le recinzioni, evidentemente, dato che gli incidenti, tu hai citato qualche caso, ce n'è stato uno a novembre vicino Pavia, ce ne sono stati diversi, evidentemente le recinzioni che ci devono essere su tutte le autostrade non sono correttamente. Fermo un attimo, Papicca, abbiamo la prima telefonata, vorrei fartela ascoltare, così abbiamo anche un contributo concreto di esperienza. E Alberto, buongiorno. Sì, ciao, sono Alberto. A lei è successo? È successo come a tanti, purtroppo. Io peraltro per lavoro guido un autobus, di andare addosso ad un cerbiato o un qualcosa del genere, che tra l'altro non è nemmeno... Cioè lei ha sentito il botto e non si è fermato nemmeno a vedere che era? No, per una questione contingente, nel senso che era una strada in discesa. Cioè sembra la barzelletta, i pinguini come sono, allora sono monache, cioè magari uno ci guarda quello che mette sotto. No, dopo io mi sono fermato a 200 metri di distanza e ho capito che avevo investito un capriolo o qualcosa comunque di una certa dimensione, ma che mi è sbucato a un metro davanti al veicolo, per cui nemmeno... Che zona era, mi scusi Alberto, che zona era, per capire anche la collocazione geografica? In quel punto ero molto vicino al confine con la Svizzera, una zona montagnosa ma prospiciente alla città, quindi questa commistione di animali che state giustamente inquadrando in questa trasmissione è verissima. Noi abbiamo una cittadina qui sul Lago Maggiore che si chiama Luino e ci sono le volpi che scorrazzano la sera cercando qua e là da mangiare, cosa che non si sarebbe mai vista quando ero bambino. Io ho 54 anni, adesso le vedo, ma una volta non c'erano i cinghiali che attraversavano la strada, adesso ci sono. Però, io ho una volpe incagnita, nel senso che ogni volta che vado nella mia casetta in Abruzzo so dove andarla a trovare, appena vedo arrivare dei turisti accanto a una sorta di camino, gli fanno i picnic, viene fuori, uno gli dà da mangiare, ho filmati e tutto, si comporta come un cagnolino. Siamo proprio in città, non sono addomesticate, ti puoi capitare di trovarle che girano fra un giardino e l'altro, ma cosa che in città non si era proprio mai vista. Però mi ha permesso solo una considerazione brevissima che vi lascio perché così a meditarla, la questione è sempre quella della velocità. Se è vero che se l'animale ti spunta all'improvviso non puoi farci nulla, è anche vero che si va sempre molto veloci e non si rispettano i limiti. Vabbè, io penso però un branco di cinghiali anche a 80 all'ora non è proprio un impatto, se c'è un po' di traffico non è proprio un impatto sereno. Comunque sentiamo Luigi, anche un altro ascoltatore. Luigi, buongiorno. Ciao, buongiorno, io telefono da Grosseto e le pongo un altro quesito, che è quello lì della presenza del lupo, no? Da noi in Maremma, lei deve sapere che a parte mio fratello ha avuto un incidente con un cinghiale che l'ha distrutto la macchina, non gli hanno dato un centesimo, bla bla bla, perché c'era il cartello e quindi se c'è un cartello dove ti dice che c'è il cinghiale, se poi cammina anche a 2 km/h, lui ti spunta addosso, ti sfracella la macchina e non ti pagano. Meno male che non si è fatto male e tira a campà. Però la questione è un'altra. In questo paese non ci sono soldi, va bene? Non ci abbiamo soldi per comprare la carta igienica ai bambini, però in Maremma si è introdotto il lupo da una decina d'anni, la presenza è molto massiccia. Ha introdotto, mica l'hanno portato, l'hanno ripopolato, diciamo. L'hanno ripopolato perché era in via di estinzione, nel 1970 delle persone si sono messe intorno al tavolino, hanno detto il lupo è in via di estinzione, ci serve il lupo per la biodiversità. E adesso quanti ne avete di lupi? Parecchi? Ne abbiamo talmente tanti che la zootecnia ovina sta sparendo. In Maremma la zootecnia non ci sono più pecore, sparendo. È chiaro, non ci sono più pecore. È questo che sta succedendo, sta sparendo un'economia che la zootecnia ovina dal punto di vista ambientale, della sostenibilità, dal punto di vista del luogo, della tutela dell'ambiente, era l'animale che dava il massimo che poteva dare dal punto di vista ambientale. Dei furboni si sono inventati che per gestire la selvaggina introduciamo il lupo, si crea l'equilibrio naturale e abbiamo risolto il problema di non far cacciare tori e abbiamo risolto. Non so, o fate gli arrosticini con i lupi a questo punto, visto che ci sono più lupi e pecore. Se aumentiamo i ristoranti cinesi non c'è problemi. Ma la questione è un'altra, è che si sta andando ancora avanti a fare studi per vedere la presenza del lupo. Hanno speso 2 milioni di euro per fare un censimento dei lupi e ne stanno spendendo altri per fare il censimento in tutta Italia per poi poter forse aderire a quel piano del 5% dell'abbattimento, perché si può decidere. Vabbè, lei vedo, in questa maniera. È molto esperto, Massimo. D'altronde più ci sono lupi più ci vuol tempo a fare il censimento. Se i lupi crescono ci vuole più tempo. Papicca Genovesi, l'ultimo ascoltatore mi sembrava abbastanza agguerrito. Riportiamolo in termini di realtà, sì. Non è mai stato introdotto il lupo in Italia. Fino agli anni 70 il lupo veniva combattuto attivamente, era obbligatorio per legge. C'era il Luparo in Abruzzo, me lo ricordo, il Luparo. Avvelenati. Ecco. In Abruzzo era rimasto qualche nucleo, altrove era stato sterminato ovunque con bocconi avvelenati che venivano sparsi dai corpi pubblici. Quindi negli anni 70 si è protetto il lupo, che era quasi scomparso, erano rimasti un centinaio, e quindi il lupo, poi è una bestia molto adattabile, si è ripreso rapidamente. Adesso ce ne abbiamo qualche migliaio in Italia, insomma, quindi è una leggenda che è stato fatto il ripopolamento dei lupi. È assolutamente una leggenda, sono stati reintrodotti altri animali, caprioli, anche gli orsi sulle Alpi, ma mai il lupo, anche perché non ce n'è bisogno, il lupo arriva ovunque sulle sue zampe, quindi non c'è proprio bisogno. È vero che il lupo preda pecore, che questo è un problema in molte zone crescente, nel grossetano è particolarmente serio, ma non è solo quello. Nel grossetano un branco di lupo è presente alla Feniglia, dove c'è la spiaggia con i turisti, per cui insomma diciamo le persone c'è tutta Capalbio, tutti i terrazzari romani vanno lì e sono addentati dai lupi, immaginate. Pur essendo adesso i lupi fortunatamente non attaccano mai l'uomo, è un animale, cioè Furio Colombo inseguito da un lupo, accadrà questo prima o poi. Ma è molto più facile che sia inseguito da un cane, i cani possono essere più pericolosi dei lupi. Quindi capisco che c'è allarme sociale anche a Grosseto, abbiamo avuto contatti con la prefettura per capire come rispondere all'allarme sociale. C'è stato un video che si trova facilmente su YouTube di un lupo all'Argentario che è entrato in paese, si è mangiato un gatto, se l'è portato via in bocca, quindi diciamo le persone si preoccupano. Dobbiamo imparare, ovviamente noi dobbiamo un po' riadattare le strategie di conservazione e gestione, perché molte delle leggi che abbiamo sono state fatte 30 anni fa, quando gli animali erano quasi spariti, non c'erano più lupi, anche il cinghiale non era così abbondante. Quindi a volte i paletti sono effettivamente molto stringenti, però nessuno di questi problemi si risolve con la bacchetta magica. Ma fermo un attimo, Papic, fermo un attimo, dobbiamo dare la linea adesso al traffico. Ah no, alla borsa, ci fermiamo solo un secondo e riprendiamo, perché è molto importante. Non vogliamo sempre arrivare a parlare di questi problemi quando poi ci scappa il morto, ci sono gli incidenti stradali. Sarebbe bene cominciare a capire in un quadro più generale quali possono essere gli strumenti per arginare un problema che abbiamo capito, perlomeno quello che ci dice Papic Genovesi, che sta nelle cose. Cambia l'equilibrio socio, le dinamiche del rapporto fra zone incolte e zone abitate, e anche la selvaggina, la fauna, cambia assolutamente le sue abitudini. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta A caccia di cibo, poco timorosi dei rumori del traffico a cui sono abituati, poco timorosi anche degli uomini evidentemente, branchi di cinghiali si avvicinano a Padova e alle sue tangenziali. Gli ultimi avvistamenti nei pressi della rotonda che immette alla bretella Boston, proprio sul ciglio della strada, all'alba, quella strada che è molto utilizzata anche nelle prime ore del mattino, quando non è ancora luce, trovarsi davanti a una bestia di 100 kg diventa pericolosissimo. Sempre più vicini alla città dunque, e Padova si sta attrezzando per prevenire i rischi da cinghiale. O la cattura tramite chiusini oppure l'abbattimento attraverso personale che è assolutamente autorizzato e che ha seguito dei corsi per svolgere questa attività. Per il momento però sul territorio comunale non ci sono. 800024 sono partiti dall'incidente avvenuto questa notte sulla 1, un morto e 10 feriti. Stiamo analizzando il fenomeno dello sconfinamento degli animali selvatici nelle aree urbane. Questo era un altro incidente accaduto in tangenziale a Padova. Leggo il WhatsApp di un ascoltatore. Nicoletti, quando il tuo ospite ha detto che il lupo ha ucciso il gatto, tu Nicoletti hai sorriso profondamente, cioè come Franti, ha sentito come veniva da sorridere. Vergognati, vergognati, buffone. Scusate, ma avete fatto due scatole così col fatto che io ero abituato a dire in bocca al lupo, crepi il lupo, no, viva il lupo, e viva il lupo e si mangia il gatto. Che devo fare? Viva il lupo però si mangia il gatto. Se il lupo lo lasci nelle zone abitate, meglio che si mangi il gatto che si mangi il bambino. Massimo, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Parma, sono Massimo Gatti. Sì. Nella mia esperienza io frequento i boschi, le montagne, la collina qua del Parmense da anni, almeno 40 anni, pesco a mosca e vado a trote. La sensazione che io, ma ho avuto anche dei riscontri da parte di amici e conoscenti sia in regione che in provincia, o amici ambientalisti o amici cacciatori, io non vado a caccia, che è questa, il lupo a noi risulta, a differenza di quello che dice il biologo, almeno così le mie risultanze, è stato reintrodotto questo lupo, non so se caucasico, bene, non sono così preparato in materia, ma sono stato ridotto. Io ho avuto occasione di vederne un... Cioè lì è stato riprodotto, qualcuno ha preso i lupi dal Caucaso e l'ha portato in Italia, ti risulta? Guardi, io le dico una cosa, che tanti lupi come quest'anno, questi ultimi anni non ho mai visti, io ne ho visti anche anni fa un paio, una volta ho avuto notizia di un lupo ucciso, ma ho trovato morto sul Naver 40 anni fa, che è un monte... E l'ha riconosciuto un lupo caucasico? No, io ho avuto notizia lì, però una cosa voglio... Vabbè, questa è leggenda metropolitana, secondo me... Però noi adesso sentiamo, non è che... parchi del Parmense, selvaggina di grossa taglia, caprioli e cinghiali sono spostati verso la pianura padana perché, a mio parere, il lupo li ha fatti scappare, nel senso che i lupi inseguono e loro trovano la zona dei parchi che è poco abitata, poco frequentata, gli animali selvatici, e si portano verso la bassa. C'è un parco del fiume Taro tra Fornovo e Ponte Taro, dove c'è il casello di Parma Ovest, dove all'interno di questo parco si trovano lupi, cinghiali, eccetera, e di lì passare al di sotto di via Emilia non ci vuole nulla. Quindi io credo che gli animali dalle montagne sono portati verso la pianura, quindi verso le autostrade, le strade ad alta percorrenza, grande percorrenza, anche per effetto di questo. Sentiamo grazie, ma sento anche Graziano pure su questa storia del lupo che viene dall'est. Graziano, buongiorno. Buongiorno. Nel Piacentino sono lupi di origine cecoslovacca. Pavia, anche Parma, e sono lupi che sono dei cani selvatichiti, sono dei lupi grossissimi. Ma lupi o cani selvatichiti? Sono due cose diverse. Sono di tutti i colori, è quello il mistero. So che è stato, io ne ho avvistato uno con i miei compagni di caccia, diciamo, era sul radio collare ed era marrone e bianco, quindi io non ho mai visto un lupo dell'Appennino marrone e bianco, nero magari sì, ma grigio, ma marrone e bianco no, un cane enorme, per dire, come taglia un pastore, come quello di un pastore romano, grossissimo, e di giorno, perché i lupi dell'Appennino girano. E gli avete sparato, Graziano? No, assolutamente no, perché sennò si va in galera se si spara un lupo. Però li hanno lanciati sicuramente, perché io avevo sentito qualcuno che aveva accennato che li erano andati a catturare nel parco dei Monti Tata, che è il confine tra la Cecoslovacchia e la Polonia, e li hanno pagati con i nostri soldi di contribuenti, ecco, e li hanno portati. Vabbè, girantata, adesso sentiamo la conferma o la smentita dal nostro esperto. Sento solo ancora Graziano. Finora, diciamo, no, Graziano non c'è più. Allora, Papic Genovese, che io ricordo che è uno zoologo e responsabile di gestione fauna dell'ISPRA, che è un organo governativo, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Mi dici questa leggenda del lupo che viene da, sembra Pugachev, il lupo della steppa? Sì, diciamo, allora, noi seguiamo i lupi con grande dettaglio e facciamo analisi genetiche su tutti gli animali, per cui sappiamo esattamente da dove vengono, sono tutti lupi italiani, e la leggenda metropolitana dei rilasci nasce dal fatto, noi capitò qualche anno fa che un lupo fu ferito proprio a Parma, dove il primo ascoltatore raccontava, noi l'abbiamo preso, è stato curato da un centro con veterinari, poi è stato rilasciato in natura dopo che è guarito ed è arrivato, ha camminato, è andato prima in Toscana, poi è arrivato in Francia, cioè i lupi hanno questa capacità di spostamento pazzesca, per cui uno si vede da un giorno all'altro, è così successo nel Senese, nel Grossetano, dopo decenni che il lupo non era più presente, il lupo ritorna. Quando ritorna, le persone localmente vedono arrivare questo nuovo animale e pensano che qualcuno l'ha rilasciato. Non è mai successo, per cui è una leggenda diffusa ma totalmente falsa. Probabilmente Graziano ha visto un cane, perché si è visto un grosso animale col collare bianco e nero. Era un cagnolone che sembrava un lupo, un po' selvatico. Che non è un buon segnale, perché i cani dovrebbero stare nei giardini o al guinzaglio, non dovrebbero stare in giro negli ambienti naturali. Però sicuramente dalla descrizione. Però sono problemi diversi, Papic, mi sembra di capire, nella mia basica ignoranza su questo tema. Il cinghiale dà alcuni problemi, crea alcuni problemi. Il lupo è un altro tipo di problemi. Scindiamo i vari problemi secondo gli animali. Diciamo, in termini economici i danni da cinghiale sono enormemente superiori a quelli che causa il lupo. Il lupo, diciamo, per fare solo un esempio, insomma, il lupo in Piemonte, che è una delle regioni che più ha lamentato il problema gravissimo del lupo, complessivamente preda pecore e altri animali per 50-60 mila euro di danni all'anno. Il ghiro, solo in provincia di Cuneo, fa danni alle nocciole, sai, la zona della Nutella, per oltre mezzo milione di euro. Quindi non è tanto un problema. E nessuno nomina mai il ghiro, forse perché pensano uno che sta lì che dorme. Tranne i coltivatori di nocciole, che sono infuriati ovviamente, però nessuno ne parla perché la predazione sulle pecore chiaramente ha un altro impatto che non il danno sull'agricoltura. Ma il ghiro come mai si è espanso anche il ghiro e mangia le nocciole? Come tutte le specie, essendo aumentato il bosco ed essendo più regolamentato il prelievo, tu tieni conto che il ghiro i romani lo mangiavano, in inglese si chiama the edible dormouse, quello che si mangia, quindi un tempo veniva cacciato e adesso non viene più cacciato, quindi è aumentato. Ma sono tantissime le specie, noi vediamo sempre più specie. E non si può sparare al ghiro, è proibito naturalmente. Può essere. Allora, le leggi prevedono la possibilità di fare molto, si può fare controllo. Tornando al cinghiale, tieni conto che la stagione di caccia normale adesso è stagione di caccia. Gli incidenti si concentrano in questo periodo proprio perché gli animali sotto la stagione di caccia tendono a spostarsi di più, a scappare e quindi finiscono anche sulle strade. Però oltre alla caccia normale è possibile fare caccia di selezione, quindi con la carabina, 12 mesi l'anno, e per di più quando ci sono danni le regioni possono attivare piani di controllo anche di notte, anche in zone proibite la caccia, anche nei parchi. Ma la caccia e selezione come avviene? Sono persone, diciamo, con una specie di patentino, di permesso di fare la selezione? Devono essere particolarmente addestrati perché se appunto possono cacciare con un'arma particolarmente potente e anche fuori dalla stagione normale di caccia. Gli animali vengono prima contati, si deve fare un piano d'abbattimento e il piano d'abbattimento prevede la possibilità di rimuoverli con questa carabina a distanza. Quindi non si può andare fuori dalla stagione di caccia normale, quella che finisce adesso, con i cani. Sono come dei cecchini, per far capire che selettivamente prendono i cinghiali. Esatto, e devono essere addestrati, preparati per farlo. Però chiunque può prendere questa autorizzazione. Noi dobbiamo verificare questi piani, ma è possibile farlo. Lì a Lodi, dove c'è stato l'incidente stanotte, è attivo la caccia normale, la caccia in selezione e i piani di controllo gestiti dalla regione. Quindi è possibile rimuoverli, però tornando al problema iniziale. Scusami papà, perché tu mi dici che è una zona già presidiata comunque con tutte le garanzie possibili. Se avviene, qual è, diciamo, il buco nella filiera che permette cose del genere, che è inevitabile? Ma parliamo del problema più serio, perché è chiaro che gli incidenti stradali sono particolarmente gravi perché possono provocare morti. Spesso il morto non è quello che colpisce il cinghiale, certo, ma quello si ferma, la macchina dietro gli va addosso e succede il patatrac. Quindi spesso non è l'incidente in sé col cinghiale, ma il fatto che in autostrada ovviamente un caso del genere è molto pericoloso. Detto questo, pensando agli incidenti stradali che sono diversi dai danni all'agricoltura, al bestiame e così via, quello che è necessario fare è prima di tutto in autostrada le recinzioni devono essere correttamente manutenute perché gli animali non devono entrare in autostrada. Questo è, sono già tutte recintate le autostrade, ma purtroppo le recinzioni non vengono sempre manutenute correttamente. Perché il cinghiale passa sotto, tende comunque. Questo perché le recinzioni non sono adeguate, nel senso una buona recinzione tiene fuori il cinghiale. Ci sono recinzioni che tengono fuori tutto, gatti selvatici, orsi, lupi. Si possono fare recinzioni e le autostrade sono tutte per legge recintate, quindi c'è un problema di per gli incidenti in autostrada, perché invece tutte le altre strade non sono recintate. Quindi in autostrada, diciamo, che da regola non dovrebbe entrare nemmeno un gatto. Esatto, e questo è una cosa che chiaramente segnala un problema. Questo è importante però capirlo, perché l'altro aspetto non è che noi possiamo sterminare tutti gli animali. A volte gli incidenti, come stanotte ancora non ci sono dettagli, ma si parlava forse di 3 animali, basta un animale. L'incidente mortale che è avvenuto a Roma qualche anno fa era un cinghiale contro uno scooter, è chiaro che chiaro. Quindi non possiamo pensare di togliere tutti i cinghiali d'Italia. Quello che si può fare è identificare i punti più a rischio, i punti di passaggio, i punti in cui le macchine vanno più veloci e ci sono bordi di boschi vicini. Noi facciamo spesso sopralluoghi per identificare queste zone. Lì è chiaro, la regione tende a mettere un cartello, dopodiché diciamo la responsabilità in qualche modo viene sollevata. Lo diceva l'ascoltatore prima, è chiaro, se c'è un cartello attraversamento di animali, uno deve starci attento. È vero il problema della velocità, ma è vero pure che in quei casi invece si può intervenire con misure che tengono più lontani gli animali, oppure anche con piani di abbattimento mirati per tenere bassa la densità in quei punti più critici. Non si può risolvere completamente il problema, non possiamo pensare di azzerare gli incidenti stradali, però è possibile ridurre di molto gli incidenti, informare in modo, ci sono anche fatte delle app per identificare i punti più a rischio, in modo che le persone sappiano che devono andare un po' più piano in certi punti, è possibile ridurre di molto i rischi. Rimane forte il problema degli ambiti urbani, perché in città, al di là degli incidenti stradali che sono un problema, sia a Genova, Trieste, Roma, dove i cinghiali entrano in città, questo è un problema, un rischio, ma oltre a questo l'interazione tra cinghiale e uomo è pericolosa. Quando io vedo i video, noi abbiamo fatto un comunicato come ISPRA, perché abbiamo visto, ci sono video su YouTube in cui i bambini cercano di catturare i piccoli di cinghiale, danno da mangiare regolarmente i cinghiali. Questo è... Si fanno i selfie i genitori davanti al cinghiale. È pericoloso. Cioè, allora, fermati un attimo, Papic, adesso la mente dovrà dare il traffico, poi ci racconti che accade a andare a dare la carezzina al cinghialetto, che è tanto carino, sì, ma forse è meglio se rimane un po' a distanza. Ci fermiamo un istante solo. Melog 800240024. Nel frattempo leggo qualche messaggio al nostro zoologo Papic Genovesi. Come avete sentito, una persona che conosce perfettamente quello che è il quadro nazionale rispetto al problema. I problemi sono facilmente riassumibili in alcuni dati. Primo, non possiamo eliminare tutti gli animali in Italia, quindi sta da sé che qualche sconfinamento ci può essere. Per quanto riguarda le autostrade dovrebbero essere tutelate da una recinzione che impedisce il passaggio degli animali. Per le altre strade, per i centri urbani, stiamo parlando di quali possono essere comunque delle forme di tutela e prevenzione. In ogni caso, ci siamo fermati su questo: non bisogna avvicinarsi a questi animali, perché anche se sembrano carini, sono teneri, coccolosi, non sono dei gattini, non sono dei micini. Papicca, ecco, ci eravamo fermati su questo particolare, la promiscuità fra abitanti delle città e abitanti delle foreste. Sì, su questo tu hai detto una cosa assolutamente corretta all'inizio, che se i cinghiali stanno a Roma è anche perché trovano molto da mangiare, quindi un problema legato alla presenza di animali in città, non solo i cinghiali ma pensiamo anche ai gabbiani e altre specie, è legato al fatto che la gestione dei rifiuti deve essere fatta bene, non devono poter accedere ai resti alimentari che sono i cassonetti ma anche gli scarti dei ristoranti che a volte vengono impilati e così via. Questo è un fenomeno che va... è un aspetto delle città che alla fine provoca un aumento non solo dei... Anche le volpi sono attirate dalla spazzatura, perché le vedi attorno ai cassonetti, le volpi. Sì, però le volpi tutto sommato non provocano nessun problema all'uomo, per cui questo è un problema meno preoccupante. Comunque la volpe è un animale territoriale, tende a tenere una densità sempre molto bassa, ma invece i ratti, i gabbiani o i cinghiali no, possono diventare numerosi. Però c'è anche un problema di comunicazione e di informazione. È chiaro, in città uno non si aspetta di vedere un animale pericoloso, il cinghiale può sembrare anche un animale carino, i piccoli striati sono molto bellini e le persone vanno a vederli a Genova, oramai nei punti in cui sono più frequentemente osservati, c'è un articolo proprio dell'altra settimana di un quotidiano tedesco che è andato a vedere a Genova i cinghiali, però... Anche perché si fanno pasturare, io mi ricordo c'era un albergo in Toscana che dalla finestra buttava il cibo, venivano sotto tonnellate di cinghiali a farsi pasturare, perché quello sono abituati. Quello di mangiare agli animali selvatici è un comportamento istintivo che abbiamo sempre avuto, ma sbagliato. Non bisogna dare da mangiare né alle volpi in montagna, è il caso che citavi tu prima, ma certo non ai cinghiali in città. Ci sono zone della Cassia dentro Roma in cui le persone portano da mangiare ai cinghiali, glielo danno dalla mano. Ora, il cinghiale può facilmente dare un morso, staccare anche la manina che gli dà il bocconcino, delle zanne, come tu hai detto all'inizio. Quindi noi dobbiamo imparare a rispettare gli animali selvatici anche non interagendo con loro in questo modo, ed è un problema di comunicazione. Cioè, le gattare della cassa sono diventate cinghialare, praticamente sono diventate cinghialare, ed è una cosa, diciamo, un comportamento sbagliato. Io capisco che uno che è cresciuto in città non possa, non debba sapere necessariamente questi aspetti, però sta a noi antipubblici informare e scoraggiare, vietare, è già vietato. Senti Papic, mi chiede un ascoltatore, cosa si fa se si incontra un cinghiale? Qual è il comportamento più corretto? E altra cosa, cosa si fa se lo si investe? Chi bisogna avvertire? Allora, se si incontra un cinghiale, diciamo, l'importante è non avvicinarsi e non interagire, per cui anche se si vedono i piccoli di cinghiale che possono essere molto bellini, non bisogna prenderli, non bisogna avvicinarsi. Dopodiché il cinghiale non è assolutamente pericoloso se uno non lo va a disturbare, non bisogna dargli da mangiare, non bisogna avvicinarsi. Su cosa fare quando c'è un incidente stradale, bisogna chiamare gli organi preposti, che sono i carabinieri forestali o le guardie, le ex guardie provinciali che adesso sono state riassegnate alle regioni dopo la riforma delle province, e quindi personale d'istituto che deve intervenire per decidere se l'animale va portato a un centro recupero oppure se va soppresso. Nessuno, è bene che nessuno si avvicini a un animale ferito, perché soprattutto in quel momento può essere pericoloso interagire con un animale, soprattutto con un cinghiale, per cui avvertire gli organi competenti e basta. Era l'esempio del video che abbiamo fatto ascoltare l'audio, di cui abbiamo fatto ascoltare l'audio. Il cinghiale ferito, che fa? Che facciamo? Lo finiamo? Secondo me è meglio non avvicinarsi in ogni caso. Ecco. Esatto, non avvicinarsi, non pensare di finirlo, che tra l'altro è anche illegale, e chiamare i carabinieri forestali o la regione. La regione, se non si è in un'area protetta, è l'organo preposto alla gestione della fauna. In città è un po' più complicato, perché appunto la norma non era pensata per gli ambiti urbani, però quasi tutti i comuni hanno anche un ufficio per la tutela degli animali che in qualche modo deve dare una risposta anche a questi casi. Anche Roma ce n'ha uno, e che poi smisterà alle ASL o alla regione nel caso di competenza che cosa fare. Quindi quando si vedono i cinghiali in giro per le città, la prima cosa che dice è colpa del sindaco. In realtà mi sembra una suddivisione di responsabilità, ci saranno anche quelle dei sindaci, ma sono abbastanza distribuite. Sentiamo Massimiliano. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è stato sindaco di una cittadina in cui c'erano parecchi cinghiali, mi sembra. Sì, ma c'erano e ci sono, è un problema che avevamo affrontato già dall'inizio. In che zona mandato. Era? Che regione era? Massimo? Era una regione Abruzzo, quindi è un problema che si è presentato sin diciamo dall'istituzione delle aree protette dei vari parchi nazionali, ma anche da prima con la ripopolazione di cinghiali fatta ad opera delle associazioni venatorie. Questo fuori di polemica, ma il cinghiale che popola in particolare l'Appennino, l'esperto dell'ISPRA potrà confermarlo, è un cinghiale che non è così originario delle questo persone. È vero, Papic, sentiamolo subito, Papic Genovesi. In parte è vero, diciamo, in parte i cinghiali sono tornati anche perché i cacciatori li hanno reintrodotti, in realtà poi geneticamente non è distante dal cinghiale che c'era originariamente. Certo, ce ne sono molti di più, l'Abruzzo è una regione particolarmente colpita dai problemi dei cinghiali, per cui noi abbiamo molte lamentele dalle zone vicine ai parchi, dai comuni che si ritrovano, ci sono stati incidenti mortali anche in Abruzzo, quindi è un problema diffuso in gran parte della regione, crescente, danni all'agricoltura, danni da incidenti, cinghiali che entrano nei paesi. È anche una regione che ha fatto, ne abbiamo lavorato con l'assessorato regionale, ha fatto uno sforzo per aumentare i prelievi, gli abbattimenti e il controllo, però ripeto, non è che questo poi risolva completamente, mi rendo conto che per i sindaci è una bella rogna. E dico solo una cosa, il sindaco probabilmente mi confermerà, i sindaci non hanno, per la norma attuale, non hanno grandi poteri, perché le leggi sono pensate per una gestione fatta fuori dai centri urbani, e quindi è la regione l'organo che ha tutte le competenze. E quindi ha pochi strumenti un sindaco per lavorare. Strumenti, all'ordinanza sindacale, che però deve essere motivata da ragioni di urgenza e di eccezionalità, e oramai se il problema è costante questi criteri non ci sono più, per cui io credo che sarebbe utile ragionare con i sindaci, con i comuni, con le regioni, per capire come dare strumenti un po' più efficaci. Non vuole essere una battuta, Papic, ma io sto tremando se sto pensando che a Roma si è parlato di far asfaltare le strade ai militari. Prima o poi qualcuno dirà facciamo intervenire i carri armati contro i cinghiali, queste cose potrebbero venire in mente. Attenzione, perché No comment. Forse sarebbe più congruo magari che riempire le buche nelle strade. Sentiamo Franco. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Parlo da Savona. Volevo una testimonianza successa a mio fratello, che può sembrare originale, ma hanno detto che succede altre volte. Addirittura non su strade e autostrade. Scendeva in treno da Genova verso la Sicilia e in zona Maremma, appunto Grosseto, di notte, in piena notte, un cinghiale si è infilato, non l'ha preso probabilmente di fronte, ma si è infilato sotto il treno. È un cinghiale, una bestia che pesa meno del... Mi meraviglio che non abbia deragliato il treno, però lì ha danneggiato tutto l'impianto dell'aria compressa e sono stati nella notte 3-4 ore fermi. Quindi le autorità non si preoccupano neanche di proteggere né le ferrovie, niente. Adesso parlerà Papic Genovesi, ma mi viene da dire che su questo c'è poco da fare, i treni non possono essere recintati. No, vicino alle ferrovie si possono anche recintare. Sentiamo Papic, sulla questione dei treni, c'è anche questo pericolo per le ferrovie in questo caso? Ma adesso questo è un caso che non conoscevo e che direi che è un caso un po' particolare, un po' limite, diciamo eccezionale. È chiaro che anche le ferrovie nei tratti critici devono essere recintate, però la recinzione delle ferrovie non è come quella delle autostrade, non è non deve essere per forza impermeabile come dovrebbe essere per le autostrade, però le interazioni, il caso di Roma era uno scooter, in Emilia-Romagna gli incidenti con i caprioli spesso avvengono anche con ciclisti, quindi la presenza di questi animali qualche rischio in più lo provoca per tante categorie, poi senza drammatizzare, non è che sia un fenomeno così devastante come i normali incidenti stradali che purtroppo di cui si parla. Papic, il vero problema è in Italia che la gente telefona mentre guida, ci sarebbe da fare ordinanze più sui telefonini, già ci sono le leggi, ma da intervenire più sui telefonini in macchina che sui cinghiali, se vogliamo fare statisticamente le cause di incidente, questo va anche detto. E anche la velocità, uno dei tuoi ascoltatori all'inizio l'ha detto. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni con la regione Emilia-Romagna nella zona dell'Adriatico, mettendo dei segnali che indicavano quando c'erano dei punti a rischio, quindi per suggerire di diminuire la velocità. La risposta è stata, diciamo, nulla se non negativa, in alcuni casi le persone acceleravano. Quindi noi abbiamo purtroppo una cultura della velocità quando guidiamo che non è proprio la più civile del mondo. Poi mi sembra di capire, in conclusione proprio Papic, che in realtà non è che nessuno stia facendo niente, è che sta nelle cose che questo comunque in questo momento deve accadere, qualcosa si sta muovendo. Può fare molto di più, io non voglio assolutamente dire che io lavoro per un'agenzia di ricerca ma governativa, si può fare molto di più, ci sono gli strumenti che spesso non vengono utilizzati, bisogna imparare nelle città, per esempio mancano le persone che vadano a catturare questi animali per spostarli quando ci sono problemi, spesso i sindaci, le regioni non si prendono la responsabilità di fare gli interventi che potrebbero fare, quindi serve un impegno da parte di tutti, sia degli enti pubblici, sia degli agricoltori, dei cittadini normali come nel caso che dicevamo sulla Cassia, però adesso diciamo senza drammatizzare un fenomeno anche naturale legato al fatto che aumentano i boschi, c'è più regolamentazione della caccia, ci sono più aree protette. Insomma, sta nei fatti che in questo particolare momento può accadere qualcosa di simile. Grazie Papic Genovesi, alla prossima.